Perfetto, sono serio. Ok, vado. Tutti seri, eh? Tutti seri. Facite serio. Vai, psa. Serio. Emo. Non fare lo emo. Sogni primogenito. Non fare lo emo. Sonny. Tutti seri, eh? Tutti seri. Tutti seri, tutti seri. Fate i bravi. Ogni tanto mi sbaglia per lui. Sì, Fossano Napoli. Partimo che gioca, fra. Tutte male. Perché sono incline ad un regime maffonetico. Gli affetto gli emo con loro stesse lame della Wilkinson. Perché ho quattro movimenti per ste quattro signorine. Rime come vitamine, stronco vite con le mine in pista. Quei lacrimogeni annebbio la vista. Faccio danni sui tuoi denti come l'apprendista di un dentista. Vista la passione per le gonne da tennista. Su sti culi faccio prese, mi chiamavano l'elettricista. Se mi presento non faccio mai casi a nomi. Se porti la biancheria te la sfilo come Naomi. E se mi girano ti conviene andare e stare zitto. Quindi tu come l'apo tira dritto. Perché se noi facciamo i seri è meglio che voi siate seri. Perché se tu non vuoi problemi con i tuoi amici siate seri. Perché se noi facciamo i seri è meglio che voi siate seri. Perché se tu non vuoi problemi con i tuoi amici siate seri. Qua in provincia grande il mio nome è Sonny. È così in giro che torna a casa dopo di me. Sonny, passanotti insonni, tu ti nascondi. Ma se mi ascolti e fotti come B, Sonny. Guardi troppi film sporchi, sembri porchi big. Pochi big qua, solo doppia B, deve fare soldi. Fra, te ne accorgi che non sto più agli accordi. Tu pignori il mio negozio, io non faccio più sconti. No, no, scopi precisi, incidi il mio nome sui pisi. Sto sotto crisi da un botto, la merindisi. Non voglio sorrisi dai miei nemici falliti. Se faccio un brindisi con Psetter non è che ti autoinviti. Ai miei concerti conto i superstiti. Restiti chi non regge i miei testi, legge manifesti. Faccio gli omaggi richiesti a Napoli City. Ti passiamo scapoli quindi svestiti. Perché se noi facciamo seri è meglio che voi siate seri. Perché se tu non vuoi problemi con i tuoi amici siate seri. Perché se noi facciamo seri è meglio che voi siate seri. Perché se tu non vuoi problemi con i tuoi amici siate seri. No, ma è il fatto di qualche pig che lascia spazio alle mie immaginazioni. No, infatti fa pensare. Oh, se a letto non immagino una bella porca pigga. Tu ti giri, la guardi, dai, giochiamole. Sì, sì, sì. Ma fai il serio, fai il serio. Ah, ragazzi, ragazzi, mettici pure la ragazza. Viva la pucchiacca. Da noi si dice viva la ma fai il serio, fai il serio. Amen, fratello. Viva la